Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Due libri di recente pubblicazione affrontano il tema dell'eutanasia. Il primo si intitola Eluana, la libertà e la vita, ed è stato scritto dal padre di Eluana, Beppe Englaro, assieme a Elena Nave. Il secondo è Storia di una morte opportuna, e gli autori sono Gianna Milano e Mario Riccio, il medico che staccò la spina a Pier Giorgio Welby. Di questi due libri parla Gilberto Corbellini in un articolo pubblicato sul settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Tra qualche tempo, non anni ma mesi, i casi Welby ed Englaro potrebbero diventare testimonianze storiche degli ultimi bagliori di una battaglia di civiltà dall'esito che al momento appare segnato. Infatti, i disegni di legge sulle direttive anticipate di trattamento, in discussione alla Commissione Sanità del Senato, che hanno più probabilità di trasformarsi in legge dello Stato, negano il diritto di rifiutare alcuni trattamenti terapeutici, in particolare l'idratazione e la nutrizione artificiali. Assai probabilmente, la legge lascerà anche alla discrezionalità dei medici se accogliere o meno le direttive redatte dai loro pazienti quando erano coscienti, perché a quel punto sarà possibile, in Italia, continuare a rifiutare, se capaci di intendere e volere, qualunque intervento medico, quindi anche quelli necessari per impiantare l'alimentazione e l'idratazione artificiale. Ma una volta perduta la coscienza, questo diritto personale sparirà, come se sparisse la persona, il che è comunque coerente con la dottrina di coloro che in realtà considerano persone soprattutto gli individui umani privi di coscienza. I due libri, Beppino Englaro e Mario Riccio, che raccontano le vicende di Eluana e di Pier Giorgio, rimarranno utili anche qualora il diritto all'autodeterminazione nelle scelte di fine vita fosse cancellato, con soddisfazione di molti medici che potranno continuare a staccare la spina o far vegetare i pazienti secondo la loro cosiddetta scienza e coscienza. I punti di vista di due coprotagonisti di queste storie rivestono un duplice interesse. In primo luogo, è apprezzabile l'efficacia e la completezza dell'informazione fornita sulle varie tappe delle due diverse storie, una delle quali non si è ancora conclusa, nonché degli argomenti proposti a favore delle libertà di scelta e del diritto di rifiutare un trattamento terapeutico. Entrambi i volumi possono servire addirittura da strumenti didattici per l'esaustività della presentazione del problema generale. Ad accomunare i due libri è anche il modo in cui sono scritti, che trasmette un senso profondo di pudore e rispetto per le persone e la sofferenza, e uno straordinario rispetto per le idee degli altri. L'argomento di coloro che affermano l'indisponibilità della vita umana e che per il momento si limitano a rendere impraticabile il rifiuto dell'alimentazione e idratazione artificiali per chi non è più cosciente, chiama in causa la dignità della persona. Ma che cos'è la dignità della persona? Ebbene, in filosofia morale e del diritto si trovano due significati di questa espressione. Da un lato, nella tradizione laica, la dignità umana è la fonte dei diritti umani e implica il diritto all'autodeterminazione. Così dice, per esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Tuttavia, la dignità umana è qualcosa di diverso nella tradizione del pensiero religioso cristiano, ma soprattutto cattolico. Indica il valore intrinseco di ogni vita umana fatta a immagine di Dio. In tal senso si tratta di qualcosa che trascende qualsiasi ordine sociale, non in quanto implica la libertà inviolabile della persona, bensì in quanto essenza metafisica indisponibile alla persona. In questo senso, viene usato come argomento per esprimere condanna verso qualsiasi scelta che esprima l'autodeterminazione o qualsiasi avanzamento tecnico che espande la libertà individuale. È abbastanza incredibile che la discriminazione etica e politica sulle questioni bioetiche in Italia sia oggi ispirata da quella stessa Chiesa cattolica che invoca la libertà religiosa e il rispetto per i cristiani perseguitati nei paesi dove prevalgono altre confessioni. E sorprende l'indifferenza di una religione che predica l'amore universale per le sofferenze, le diseguaglianze e i conflitti sociali che producono la discriminazione e la cancellazione di quei valori e diritti umani che sono il presupposto della convivenza civile. Avete ascoltato la lettura di una recensione di Gilberto Corbellini a due libri dedicati a Eluana Englaro e Pier Giorgio Welby, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Le persone vanno e vengono continuamente dalle nostre vite. Ci si incontra, ci si perde, alcune volte ci si ritrova. È un processo naturale, ma i veri amici lasciano sempre un'impronta nei nostri cuori. Avete ascoltato Gli amici veri lasciano un'impronta, di Alessandra Soresina, dal libro Un giorno da leoni, PM Editore, 64 pagine, 12 euro.